l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, alle 10, 6 primi 57 secondi in questo, almeno per Milano, piovoso, con accenni di pioggia, sabato di luglio, sabato 23 luglio. Grazie per l'ascolto in diretto in podcast qui dagli compari dei Conti della Belva che sono in studio insieme a Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio. E naturalmente non possiamo che dirvi, nel preannunciarvi gli argomenti della puntata e l'appello a tutti voi per chiamarci all'800240024, sapete invece per gli sms 349-238-66 che prendiamo anche comunque telefonate su quello che ci ha fatto restare con il fiato sospeso per ore e ore e ore ieri sera, stanotte, e che comunque resta gravido di pesantissimi interrogativi. Naturalmente sto parlando dell'ennesima strage del venerdì sera che ieri ha colpito Monaco di Baviera. Per lunghissime ore la reazione istintiva, che era stata quella di pensare di un attentato di matrice jihadista, ha iniziato a un certo punto a sgretolarsi di fronte all'emergere di un profilo sempre più incerto di un autore. A stamane, quindi dalle prime ore della notte, in realtà della giornata, la tesi ufficiale è quella dell'autore di queste 9 vittime, un 18enne tedesco iraniano che ha nel suo profilo fino a questo momento una specie di sintesi di tutto quello che non torna, per così dire, nell'integrazione occidentale. È un iraniano, quindi è sciita, non è riconducibile alle diverse matrici dell'estremismo sunnita, né jihadista, né di fratellanza musulmana, né qaedista. Da quello che abbiamo capito ha avuto problemi psichici, ha avuto forti problemi di integrazione, ha lamentato problemi di bullismo, però con la pistola si vendicato. C'è chi lo ha sentito dire Allahu Akbar e chi no. Certo, è una sintesi di tutti i problemi di fronte ai quali siamo senza risposte, come dire. E vedremo nel corso della giornata quali saranno ulteriori sviluppi. Anche ieri, come a Dallas, si è parlato a lungo di un comando che metteva in crisi qualunque tipo di ricerca a tappeto nella città, paralisi della città, paura, terrore, incomprensione. Nel frattempo, quindi diteci la vostra su questo se volete all'800240024. Nel frattempo, nei giorni alle nostre spalle, in Turchia è andata avanti una specie di repressione senza precedenti, o meglio con precedenti degli anni 20-30, perché è come nella Germania dopo l'incendio del Reichstag, e quindi siamo ormai a 80.000 persone negli apparati pubblici ed ecclesiastici colpiti da dimissioni, sostituzioni o carcerazioni, oltre 10.000 senza passaporto. Su alcuni giornali trovate oggi, sul sito del Fatto da ieri, le lettere accorate che i professori universitari turchi scrivono ai loro colleghi in Italia, implorandoli di una qualunque lettera che consenta loro di giustificare il fatto, senza essere pagati, di continuare a lavorare in Italia. Ma la verità è che lì c'è un giro di vite di fronte ai quali assisteremo per anni, con ogni probabilità, all'emergere a questo punto, senza mediazioni, di un nazionalismo con chiesa di Stato sunnita ed egemonia territoriale anti-iraniana e anti-saudita nell'area medio orientale. In più, Trump sullo sfondo, la vittoria alla convention di Cleveland. Vi dico subito che, sentite tutti i discorsi, io preferirei come candidato la figlia Ivanka e non lui, ma non per questioni estetiche, perché ha fatto il discorso più equilibrato di tutta la convention, e sullo sfondo il post-Brexit. Ma di questo noi ci occuperemo in questa puntata. Vi dico subito, naturalmente parliamo con il nostro grande Mario Seminario all'inizio degli indicatori macro della settimana, non positivi, perché si profila che la frenata arriva e come. Dopodiché aggiornamento anche sulle banche, vicende bancarie, visto che siamo tutti col fiato sospeso per capire entro la prossima settimana cosa succede a MPS, la trattativa con la Commissione Europea, lo Stato, non lo Stato, e vedremo. Poi abbiamo due grandi blocchi. Il primo blocco in cui commentiamo il report annuale di CRS di Mediobanca dedicato all'universo delle partecipate locali, le IRI locali, e vedremo settore per settore quanto si continua a perdere. Il TPL è un baratro e l'ATAC di Roma continua a essere in testa naturalmente alla graduatoria delle aziende pubbliche locali che perdono di più. Diteci cosa preferireste su questo, vorreste che fossero cedute? Credete davvero che il decreto della riforma Madia sulle partecipate avvierà cessione di massa? Ci porremo questo problema perché con i nostri ospiti uno di loro sarà proprio chi per Lanci segue questa vicenda delle partecipate. E poi un altro blocco che dedichiamo al sindacato, lo spunto, il governo che ieri, mentre l'attenzione andava sempre più verso Monaco, in realtà ha dovuto smentire il TAR del Lazio. Il TAR del Lazio aveva smentito il governo, non voleva lo sciopero dei controlli di volo oggi, il ministro Del Rio aveva emanato un atto, il TAR lo aveva smentito dicendo neanche per idea. La libertà del diritto di sciopero viene prima rispetto a quella degli cittadini di spostarsi anche in un weekend di luglio, e il governo ha intignato e ha detto manco per idea, allora precettiamo. Allora partiamo di qua per parlare del presente e del futuro del sindacato, ed è con noi Marco Bentivogli, il segretario della FIMCISL, i meccanici della CISL, perché ha scritto un bellissimo libro da titolo chiaro, Abbiamo rovinato l'Italia, ecco, e con lui ci porremo questo problema. Quindi se volete chiamateci anche per dirci cosa pensate, pensate che ci sia la possibilità di un sindacato diverso nel nostro paese, o un blocco corporativo con le altre, anche con le associazioni di impresa, e come no, e con i poteri pubblici troppo interessato a scambi negli interessi reciproci per pensare all'interesse generale. Ecco, questi i temi. E oltre a questo, però, cosa vi ha colpito in settimana, Mario? Allora, una cosa che è uscita ieri sul profilo Facebook del governatore della regione toscana Enrico Rossi, che viene segnalato oggi da Massimo Bordin sulla sua rubrica sul Foglio, praticamente Monte dei Paschi fuori nomi. Ha scritto ieri sul suo Facebook Rossi, Monte dei Paschi in difficoltà estreme per i crediti deteriorati, vanta 24 miliardi di crediti malati. Di grazia, potete fornirci i nomi dei primi 100 grandi beneficiari di questi crediti facili? Ora, al netto di questo attacco violento di grillismo, diciamo, che ha colpito il governatore della regione toscana, posso capire anche i motivi. Però, cioè, il governatore della regione toscana faccia... Cioè, il motivo è che lui è candidato contro Renzi al congresso del partito. Il motivo è quello, poi magari, visto che lui è espressione di un partito che con quella banca è corpo unico da sempre e adesso, diciamo, è caduto dal letto, dal seggiolone, ha scoperto che c'è una banca che rischia di fallire, forse sì, forse no, ma nel frattempo è successo di tutto negli ultimi 5 anni, lui era in tutt'altre faccende affaccendato. Probabilmente, visto che tra tutte le sue mansioni fondamentali c'è anche ad esempio quello del Frecciarossa del Popolo, come abbiamo ricordato recentemente, no? Vuole ridurre la classe business, aumentare l'economy, ecco questa trovata, no? Noi vogliamo i nomi dei grandi creditori beneficiari dell'era Mussari, va bene, ripeto, questo è un paese che soffre della memoria di un pesce rosso, ma alcune persone non tengono vergogna. Il bello addormentato della quercia, per così dire. Esatto, come favola, Carlo. Io devo ricordare a tutti le brillanti operazioni di privatizzazione del governo italiano, in particolare sulla nostra amatissima Poste Italiane. L'ultima operazione, che trasferisce a CDP in pieno conflitto di interessi, ricordo che gli azionisti di CDP sono anche le fondazioni che teoricamente vorrebbero guadagnare qualche cosina dalle loro partecipazioni in chi oggi di fatto è il concorrente principale di Poste, ovvero le banche italiane. Lo fa il governo semplicemente per formalmente aderire alla richiesta, diciamo ormai ineludibile della Commissione Europea, di ridurre il debito pubblico, ma lo fa con un'operazione che direbbe il mio amico Mario Seminerio di perfetto trecartismo, cioè spostando le carte, e in una situazione in cui CDP a questo punto diventa partecipata dalle fondazioni, controllore di Poste Italiane, delle quali è anche il miglior committente per la raccolta risparmi, garante non si capisce bene per che cosa dei buoni fruttiferi del tesoro garantiti dallo Stato, lo stesso Stato che 2.300 miliardi di debiti, in una situazione in cui la governance però, vabbè, quella non si tocca, nel senso che io ti cedo le quote, me le paghi, dice il governo, però decido io, ci dico io cosa devi votare e cosa devi fare. Ma Oscar, no? Tu che sei un grande socialdemocratico, come si fa? Piano con le accuse, piano con gli insulti. No, ma poi, scusate, ma se adesso la CDP controlla Poste Italiane e Poste Italiane ha in pancia il Banco Posta, no? Se qualcuno un giorno fuori dall'Italia decidesse che il Banco Posta è magna pars di Poste Italiane, quindi è una banca, la CDP andrebbe in guai serissimi. poi magari non succederà perché l'aspetto di recapito della corrispondenza, l'aspetto logistico comunque è ancora rilevante nei fatturati, eccetera. Però, visto che sentiamo quotidianamente esponenti politici... Tu sai che la non richiesta della licenza per BancoPoste è stato per un bel po' di anni il sottile confine per evitare scontri all'epoca... Certo. Tra Poste, le banche, le fondazioni bancarie. Sì, adesso sì. Tutto è cambiato. Tutto è cambiato, Però sì, il progetto industriale Poste Italiane era un'altra cosa. Era un bel progetto che mi sento ancora oggi di dire ambizioso, interessante, perché voleva fare l'infrastruttura di cambiamento. Cioè, quella parte di Poste Italiane, la parte organizzativa sul digitale, rimane una cosa interessante, con l'effetto però che il governo lo ha promesso, ha messo sul mercato un'azienda con un piano industriale interessante, dopodiché cosa ha fatto? Sostanzialmente un'operazione di cassa e di non so come definirla, un portage, dove il risparmio gestito, i prodotti assicurativi e la banca assurance tengono in piedi tutta la baracca sopra questo, diciamo, manto di 2.0 3.0 che prima o poi arriverà magari in maniera minore e limitata. Però andiamo avanti così che andiamo bene. Ragazzi, bisognava separare l'attività finanziaria dalle altre. Però naturalmente, come vedete, in Italia noi continuiamo a essere minoritari nella politica italiana, diciamola tutta, non c'è nessuna parte politica che dia voce o peso a questi argomenti che sosteniamo noi, perché la destra lasciamo perdere in che cosa si è persa negli anni, la sinistra figuriamoci, Lega, 5 Stelle hanno altre idee, ed eccoci qua, cari amici, quindi facciamo la nostra trasmissione, lo ricordiamo, poi il tempo vedrà a chi dare ragione. Adesso abbiamo un minuto di interruzione, poi torniamo per le nuove economiche della settimana e per tentare di dirvi anche cosa pensiamo di questa vicenda che sta diventando un po' ridicola, lo dico senza voler sembrare mancare rispetto a nessuno, di Siena, dello Stato che per mesi picchia i pugni e poi dice: ma no, noi facciamo una soluzione di mercato. Vabbè, tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta qui con Parli dei Conti della Belva e iniziamo con la nostra consueta appuntamento con le notizie positive o con l'orrore a seconda della settimana, quindi con la crisi. A che punto la crisi? Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta. Mario, sì. Allora, previsione ribasso, una raffica, ohimè, indice zero tedesco, anch'esso non proprio positivo, ma insomma... Gli inglesi che se la fanno sotto dopo aver votato male, ma allora se usciamo perdiamo dei soldi. La cosa che mi ha colpito sono questi dati non troppo buoni del fatturato e ordini industriali italiani di maggio, che sono tutti negativi sia sul congiunturale che sul tendenziale. Poi il commercio al dettaglio a maggio nel mese è andato benino però no. Se guardiamo il tendenziale, quindi in valore corrente e in volume, cioè in termini reali, è tutto negativo. Cioè si conferma la sofferenza di tutta la filiera commerciale. Oggi sul Sole, ad esempio, ci sono articoli, c'è un articolo di commento che praticamente conferma quello che noi diciamo da sempre. Però mi colpisce anche che un esponente del settore dice: o la Brexit o altre cose, per gli italiani c'è sempre un motivo per preoccuparsi e smettere di consumare. Questa cosa mi ha strappato un sorriso, perché noi ieri abbiamo visto la società Market ha pubblicato l'indice dei direttori acquisti di imprese manifatturiere e di servizi, prima stima per il mese di luglio. Per il Regno Unito c'è stata una caduta verticale, cioè praticamente post Brexit in Regno Unito c'è stata una gigantesca gelata, non si fanno più ordini, le aziende sono diventate estremamente caute. Questo di per sé non vuol dire ancora che il Regno Unito precipiti verso la recessione, questo è importante a dirsi, perché siamo ancora nel brevissimo termine, non si può dire. Anche se Market dice questo valore dell'indice di diffusione è compatibile con un PIL del terzo trimestre di meno 0,4%, che sarebbero caduti proprio in una buca dall'altezza di qualche metro. Ma la cosa più bella è che l'Italia riesce sempre sugli shock esterni a non sentirsi bene molto prima che questi shock esterni si manifestino. perché i dati, le serie storiche, la media mobile a tre mesi di indici di fatturato e ordinativi industriali italiani è in flessione da circa un anno, dopo aver toccato il picco a giugno dello scorso anno. Noi siamo preveggenti, lo sai che dai. Ora sì, io capisco anche che c'è pressione sui fatturati perché c'è la deflazione e quant'altro, ma questo comunque mette pressione su strutture fisse dei costi, ad esempio sul costo del lavoro. Però a me viene da sorridere, perché io ricordo che nel 2008 l'Italia fu, col Giappone, l'unico paese OCSE, certamente l'unico paese G7, che fece segnare una contrazione del PIL. I nostri politici diedero la colpa a Lehman. Ovvio. Ancora prima che Lehman si manifestasse, no? All'epoca sapevamo il colore del governo e chi c'era al governo. Poi c'è stato l'11 settembre, Tremonti andò avanti per 3 anni a farcelo a sushi dicendo che era stato il crollo delle Torri Gemelle che aveva zoppato la nostra economia, mentre il resto del mondo correva con le sue bolle e bollicine. Dopo 3 anni Tremonti, visto che in questo paese solo gli stupidi non cambiano mai idea, e questo è un paese di persone molto sveglie e molto intelligenti, disse che non era stata l'attentato dell'11 settembre. Perché dico questo? C'è una narrativa ricorrente in questo paese, nella sedicente classe di governo di questo paese, che guarda sempre all'esterno. C'è un complotto esterno ai nostri danni e c'è uno shock esterno che ci colpisce, anche se con noi non c'entra nulla, ma ci colpisce in maniera violentissima e ci costringe a chiedere flessibilità ai nostri partner di turno. Questo è, il tempo passa, ma in questo paese non cambia mai realmente alcunché. Beh, soprattutto non cambia il riflesso condizionato della politica. Ma perché questo? Perché naturalmente significherebbe altrimenti dover doverosamente indicare e poi impegnarsi a risolvere, ciascuno secondo la sua ricetta, la destra, la sinistra, i problemi fondamentali che sono alla radice del fatto che da tanti anni, da prima dell'euro, produttività ferma, cresciamo meno degli altri quando le cose vanno bene, andiamo peggio degli altri quando le cose vanno male, anticipiamo, per così dire, anticipiamo e amplifichiamo i cicli. Questo è il problema. Allora, siccome naturalmente la politica italiana questo lo nega per definizione, la realtà è che si è aggiunta poi un'altra novità. Prima era la politica, perdonatemi, il bilancio di questi ultimi 20 anni, e che esauriti i governi di destra, sinistra, di tecnica e tecnici, oramai sono le classi dirigenti a blocco di fronte alle difficoltà crescenti che questo tipo di fenomeno e le sue conseguenze di bassa crescita e bassa produttività, oramai elevatissima perdita di investimenti, produzione industriale, reddito pro capite, questo è il punto, ha prodotto una specie di legione tebana chiusa in cui, mettiamoci, un bel pezzo di grandi industriali italiani, uno, due, i manager più che gli assetti di controllo che iniziano a dividersi, ma insomma manager di grandi banche, i regolatori bancari dei mercati finanziari e ahimè i governi pro tempore che diventano prigionieri ciascuno per propria parte di questo meccanismo, perché è questo quello che noi vediamo nella partita bancaria, eh. È un fenomeno più grande di chiusura a rocco delle classi dirigenti italiane. Digerenti, diciamo. Posso dirvi una cosa? Oggi Bazzoli, che rilascia secondo me una bella intervista, direttore del Foglio Cerasa, Bazzoli è più outspoken, è più esplicito Bazzoli di tutti questi morti imbiancati dei sepolcri che continuano a dirci l'Italia deve ottenere le deroghe e le colpe sono degli altri, tutto quello che è elencato dal 2008 in poi, no? Bazzoli, che malgrado la sua età eccetera, ce la spiega, scusate, vi spiego perché abbiamo appoggiato, abbiamo deciso di promuovere la cosa che ha portato a Cairo, una gara aperta per il controllo proprietario, viva viva, ce ne fossero dovunque in Italia, a prendere le CS. Quando i Khan ci hanno detto che uscivano dal gruppo e che avevano l'altra opera, ma siamo usciti dal gruppo, noi abbiamo fatto il giro dei soci e con i soci di Mediobanca abbiamo capito che, siccome volevano tenere il controllo, gli abbiamo detto beh allora farete un aumento di capitale, no? Finalmente. Dice, passa un mese, passa due, passa tre, passa quattro, niente. E allora bisogna, ci vuole qualcuno che dia un indirizzo, una cosa. Vedo più chiarezza in un'impostazione di questo tipo, ripeto, di Bazzoli, non l'avrei mai immaginato se me l'aveste chiesto 20 anni fa, del meccanismo collusivo che vediamo invece in atto in tante, tantissime altre partite, che spiega le cose tipo Poste, CDB dette prima e così via. Allora, ditemi adesso invece brillantemente cosa pensate di questa bella partita Siena, che la prossima settimana va in definizione, per così dire. Io sono incredulo, ho smesso persino di scrivere, perché dopo che tutta sta prosopopea di mesi per dire che ci vuole lo Stato, scomodare la BCE che insomma ha dato una manona anche in questo senso eccetera eccetera, e poi tornare con la codina tra le gambe a dire ma no, la soluzione di mercato, lo Stato non serve eccetera eccetera, io non ci credo neanche a questo, però iniziamo un bel giro. Che no. pensa Carlo Alberto? Penso che non sarà una soluzione trovata la settimana prossima. Penso che le cose si trascineranno ancora per mesi, almeno dopo il referendum, perché l'Italia non è pronta per digerire culturalmente una soluzione sistemica, e non basta una ricapitalizzazione. Una cosa bella ha detto Draghi l'altro ieri, ha detto che tutti discutiamo di problemi patrimoniali, ma in realtà dovremmo guardare i problemi reddituali delle banche. Non c'è nessun capitale da infilare nel bilancio della banca, non c'è nessun aumento di capitale che possa risolvere un problema strutturale, e cioè che non c'è equilibrio economico sostenibile, e non soltanto della nota banca sui colli fatali del Chianti, ma anche di buona parte del sistema bancario italiano ed europeo, fatemi dire. Questa cosa di Draghi, che pochi hanno colto, secondo me è il punto di svolta. In uno scenario a tassi zero prolungato, e Brexit certamente non aiuta, abbiamo visto che il QE continuerà, non sappiamo più che cosa far comprare la banca centrale, e non stiamo dicendo al popolo fondamentalmente che il nostro sistema bancario non ha bisogno di un salvataggio, ha bisogno di una profonda ristrutturazione organizzativa. La classe politica non è pronta a dire queste cose all'economia italiana, non è pronta per esempio ad accelerare l'evoluzione verso l'altra parte fondamentale delle riforme europee, che è l'unione del mercato dei capitali, la famosa Capital Market Union. Perché dico questo? Perché senza quel punto di equilibrio del mercato dei capitali, che prevede una MiFID diversa, prevede un bilanciamento diverso dei flussi, prevede completamente di ristrutturare le fonti di credito delle aziende, senza quel genere di agenda, caro Oscar, noi metteremo dei cerotti a una giugulare che sta sanguinando. Ma io dico che, in sintesi estrema, per quello che ho capito io, tutto questo vortice di rivendicazioni e le patuellate anticostituzionali eccetera eccetera che hanno fatto elevare cacchini di risate, mamma mia, povera Abi. Detto questo, si riduce alla faccenda seguente: a seconda del quanto sopra 30 o quanto sotto 30 per i prezzi di cessione di NPL di Siena, tutti hanno capito, intorno a 10 miliardi, poco meno e così via, si determinano più o meno 2 miliardi shortfall di capitale, con aumento di capitale se il prezzo è sufficientemente buono. Il rischio però è che si debbano aggiungere altri 2 miliardi per il trenino di incagli che diventano sofferenze. Esatto. E il rischio è che se ne aggiungono altri due se il regolatore dice un momento, i vostri schemi interni, modelli di valutazione, esatto, li aggiorniamo, esatto, e quindi fa 6 miliardi. Ok, come si fanno questi 6 miliardi? Di mercato vedremo quali sarà l'ammontare del nuovo capitale che si aggiunge ad Atlante 1, 2, Giasone, quello che volete voi, quanti casse previdenziali. Le casse previdenziali, scusate, lo Stato li ha messi nell'elenco, sono classificati come pubblici nel nostro paese quando si tratta di fare le manovre finanziarie, adesso diventano privati anche ai fini dei conti pubblici rispetto, esatto, all'Unione Europea. Cioè, perdonate, ma ci sono delle cose che a me fanno oramai ridere, ma dico ridere per terrore, ecco. Comunque vedremo, questo è l'ammontare delle quote in campo, da che siamo partiti dicendo lo Stato ci vuole dovunque, adesso pare che sia solo tutto mercato. Quanto poi alcuni di voi che per tutta la settimana hanno chiesto ma perché mai JP Morgan dovrebbe fare un prestito ponte di 6 miliardi, c'è una risposta abbastanza chiara, e anche questo i giornali non ve l'hanno data, non capisco perché. JP Morgan, Siena è un grandissimo cliente di JP Morgan, JP Morgan si espone, ecco, per così dire. Alcuni politici come Boccia hanno detto solo le commissioni, vedremo se è vero, ma se fa un prestito ponte 6 miliardi vediamo quanto se lo fa pagare prima di giudicarlo, perché sì, esatto, è sempre un problema di prezzo, poco, del prestito, però non è che non si esponga, però insomma questa è la fotografia. Mario, tu che pensi invece? No, io guarda, sono abbastanza stanco, nel senso che abbiamo letto di soluzione di mercato con prezzi non di mercato, ai quali verrebbero. E questa è la cosa, è fantastica. Che i prezzi sia una specie di grande lotteria, no? Una specie di. Secondo, esatto, te il prezzo qual è? Una consultazione, facciamo un referendum. La soluzione è di mercato e i prezzi non lo sono. Per cui poi abbiamo sentito, ripeto, anche lo stesso Francesco Boccia, diciamo, che dire: è inutile che i signori liberisti facciano i puristi. Tiriamo fuori i soldi, perché sono anni che le banche italiane necessitano di una ventina di miliardi, e usiamo la CDP. Vabbè, per controllare delle banche. Ma, senti, io avessi avuto. Ieri non ti hanno fatto parlare. Ieri purtroppo non ho parlato perché le vicende di Monaco, ma anche purtroppo una pessima gestione del microfono da parte del conduttore. Boccia, perché non ha detto quello quando c'era la fondazione prima azionista nel 2011-2012 e quando i fessi senza titoli come me andavano da Monti a dire, all'epoca si poteva farlo perché non c'era la BRRD. Allora, cacciate via questi azionisti inefficaci, azzerateli, pulite e rivendete. Esatto. All'epoca stavano muti quelli del PD come Boccia, perché la fondazione anche, non si toccava. Ma anche quelli come Rossi. Muti perché presi dall'inderogabile anche il loro conflitto di interesse. L'Italia è la somma di conflitti di interesse diversi. Siccome la fondazione era il partito, l'hanno, certo, no, c'ha oramai una quota ridicola che si azzererà, però è salva, l'hanno posta in salvezza. Confindustria è stata d'accordo con questo, visto chi ha capitanato quell'operazione, cioè l'attuale vicepresidente di Confindustria. E allora a questo punto diciamolo chiaro, e tutti hanno le mani sporche appiccicose perché per 5 anni hanno lasciato morire quella roba e se la prendono coi tedeschi, coi prezzi di mercato. Ma mettetevi in fila con una, e levatevi la maschera, chiedete scusa per aver inflitto questo rischio progressivo a chi è rimasto coi titoli in mano, eccetera eccetera. Io la vedo così, naturalmente. Zero titoli, questa è la mia risposta. Esatto. Torniamo tra un minuto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci tornati in diretta, il compagno di Conti a Belva si è aggiunto, reduce, praticamente è stato sul palco con il boss in tutti i suoi, l'abbiamo perso perché si è fatto tutti i concerti e sprint possibili e immaginabili e ne farà. Non è anche... vero, c'è stasera a Göteborg che sono qua. Hai capito, a Göteborg non è andato. Miei comunque Renato Cifarelli, ciao Renato, come stai? Buongiorno a tutti. Volevo dire una cosa, Mario, sai com'è la storia dei prezzi? Sono dei nostalgici perché loro si ricordano i prezzi amministrati, esatto, e quindi hanno questa nostalgia. Sono tutti nostalgici di Diocleziano. Soluzione di mercato, non di mercato. Il tessuto, non tessuto. Allora, cari amici e compari, ieri RS di Mediobanca, una delle tantissime cose ottime che fa, io vabbè lo venero da quando l'ho scoperto tanti anni fa, sostituendosi ad analisi che sarebbe bene facessero anche degli studi di ricerca pubblici, ma invece RS di Mediobanca, così come ci ha regalato la serie storica che poi è diventata quella del quarto capitalismo italiano, cioè l'insieme delle imprese meglio capitalizzate, meglio patrimonializzate con la migliore redditività e produttività dell'intero mondo delle imprese italiane, e non sono i grandi gruppi naturalmente, così da parecchi anni analizza e ogni anno fa un rapporto sulla base dei bilanci dell'universo delle partecipate pubbliche italiane. Naturalmente non parliamo di tutte le oltre 10.000, 11.000 quanti sono, ne analizza per alcuni settori di utilities, quindi l'energia, il trasporto pubblico locale, i rifiuti, l'ambiente, eccetera, eccetera, ne individua un certo numero, il più significativo, quindi sono poco meno di 90, però rappresentative dell'intero universo degli enti locali proprietari, cioè comuni, regioni e province, e ci fa capire però attraverso questo metodo anno per anno come stanno andando le cose. Naturalmente il rapporto che è uscito ieri è relativo ai bilanci del 2014, naturalmente qua è tutto bloccato sul mio computer, e quali sono in sintesi estrema, perché lo vedremo con i nostri ospiti, i risultati che escono fuori da questa fotografia fatta da Mediobanca. Stiamo parlando, ripeto, di più o meno poco meno di 90 gruppi che hanno ricavi per 32 miliardi rotti nel 2014, quindi questo solo gruppo di imprese è già da solo la quarta impresa italiana, per capirci, e che vedono in particolare un settore perdere a gogo con le dovute eccezioni, ma insomma il trasporto pubblico locale resta la piaga sanguinolenta per la collettività, perché per il solo 2014 costa alla collettività 5 miliardi. L'ATAC è quella che in 4 anni ha perso più di 1 miliardo a Roma. Stiamo parlando di un insieme di imprese che con i 115 enti locali che ne sono azionisti, controllori e partecipanti, da sole determinano più o meno 2000 nomine, di cui 870 in posizioni apicali, in media 18 per comune, quindi insomma stiamo parlando di un bel blocco di potere. E se andiamo a vedere la geografia dell'efficienza, per così dire, è naturalmente molto diversificata tra nord, sud, amministrazioni efficienti sia al nord che al sud. Quindi da questo punto di vista è una fotografia che ci fa capire come negli anni ci siano problemi strutturali di settore, il trasporto pubblico locale, problemi strutturali veramente andati dalla peste alla lebbra, di anni e anni di incapacità della politica di saper affrontare i problemi, come le municipalizzate a Roma, totali dissimetrie rispetto a come sono stati organizzati in bacini sovracomunali, provinciali e talvolta transregionali l'offerta dei pubblici servizi, avendo in qualche modo anche l'economicità di gestione in testa, perché quello che è avvenuto con le grandi utility dell'energia non è avvenuto invece in tutto il resto. Allora, per parlarne abbiamo con noi innanzitutto l'avvocato De Nicola dell'Adam Smith Society, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia prima domanda è, dalle cifre viste, qual è la sua prima considerazione? Beh, la prima considerazione è che, tanto per cominciare, queste sono le società migliori, quindi anche i numeri che ci sono devono essere presi avendo in mente che tutte le altre società municipalizzate o degli enti locali e così via sono più piccole, quindi più inefficienti e quindi più in perdita. Perciò ricordiamoci che già questo quadro, comunque un quadro abbastanza roseo, perché mette parecchie società che sono quotate, parecchie società che hanno economia di scala, parecchie società che sono in una situazione di semi-monopolio naturale, tipo le autostrade del Brennero e così via. Quindi qualsiasi commento deve tenere in conto che poi tutto il resto dell'universo è molto peggio. La seconda cosa che salta agli occhi è che anche nelle situazioni più disastrate, quindi il trasporto pubblico locale, non è che tutti i gatti sono bigi, perché ci sono alcuni che riescono a far conto sul mercato e altri che invece sono dei disastri completi. Se noi vediamo il trasporto pubblico locale, ad esempio, vediamo che la VM di Venezia riesce per il 74% con i ricavi di mercato a coprire i costi. Ora, la VM di Venezia è un caso particolare, perché come chiunque sa che va a Venezia e non è residente a Venezia, il vaporetto lo paga 7 euro, 10 euro, è una situazione particolare che non si può replicare altrove. Però c'è tutto un gruppo, Bologna, Milano, Brescia, che riesce a stare con i ricavi al 60%, all'ATM di Milano e così via. Se invece andiamo a vedere altre situazioni, abbiamo delle cose spaventose. Abbiamo Palermo, i ricavi di mercato coprono il 17%, quindi questo ci dice molto chiaramente. Catania 17%, è una situazione assolutamente inaccettabile, il che ci dice che anche all'interno delle partecipate pubbliche ci può essere una grande differenza tra avere più o meno efficienza. Se tutti fossero, non dico a livello di Venezia perché appunto Venezia non si può replicare, ma a livello di Brescia, Milano, quindi città grandi e città medie, e oggi il deficit, invece che essere di cumulato nel corso degli anni di 17 miliardi, sarebbe un deficit molto più basso. La seconda cosa è che la redditività, anche di quelle che vanno bene, comunque è una redditività che in media, facendo un po' di comparazioni naturalmente un po' grossie, mettiamola così, in media è minore di quelle delle società concorrenti interamente private. Quindi anche quelle che vanno bene, per esempio abbiamo le autostrade, abbiamo l'ASAM, che è la Milano-Serravalle, che riesce a fare una perdita di 400 milioni. Come si faccia a perdere con un'autostrada? Quella del Brennero invece va a degli utili altissimi e sono tutte e due società in mano a enti locali. Quindi in media comunque rendono meno delle private. Ultima cosa da considerare è che questa crema di società, abbiamo detto, queste 89 società con tutte poi le controllate di 350, generano utili che se fossero vendute le società e quindi se si facesse cassa, e il loro valore viene calcolato all'incirca sui 14 miliardi, gli interessi che gli enti locali risparmierebbero rispetto al loro debito sarebbe superiore agli utili che generano queste società. 560 milioni di interessi risparmiati a fronte di 430 milioni di dividendi. Quindi pur considerando questa crema, pur considerando che ci sono alcune amministrate bene e altre da schifo, comunque sia nella media non c'è una ragione vera dal punto di vista economico dell'efficienza dei conti per mantenerla in mano al pubblico. Naturalmente la geografia è diversificata, perché quando andiamo a vedere la copertura dei costi operativi con ricavi di mercato, per esempio nel trasporto pubblico locale, noi abbiamo vicende come quelle del trasporto ferroviario nella tratta urbana e nell'anello urbano di Napoli, cioè oggi in carico a una società che si chiama Ente Acquedotto Volturno, tanto per capirci quanto può essere complicata a volte l'evoluzione dei controlli pubblici nel nostro paese, cioè quella che controlla la Cumana, la Flegrea e la Circumvesuviana, che rispetto ai suoi costi raccoglie dal mercato bigliettazione del resto il 17%, cioè stiamo parlando di cose, ecco, che non dovrebbero far parte dell'universo del possibile, non della realtà, dell'universo del possibile. La questione diventa adesso, no, sono un secondo ospite, noi abbiamo chiesto all'ANCI, non poteva il sottosegretario Rughetti, che si scusa molto, ci saluta, ci segue, grazie, ma aveva veramente un impegno, però abbiamo chiesto quantomeno all'ANCI, e quindi abbiamo con noi il sindaco Castelli, che però non è più qui come sindaco della città ma come ANCI, per capire, ma voi pensate davvero, di fronte a questa fotografia che noi ogni anno commentiamo, che rimbalza perché alla grande stampa non interessano queste cose, però a voi dovrebbero interessare, voi pensate davvero che il decreto attuativo della riforma Madia che riguarda le partecipate, ne abbiamo già parlato, noi pensiamo che non cambierà quasi niente a dire la verità, ma che viene strombazzato sui giornali come le partecipate scenderanno a meno di 1000 e così via, non è vero, perché nel testo c'è scritto la deroga, c'è scritto come si fa, la presidenza del Consiglio dei Ministri può fare eccezione su qualunque criterio, non c'è niente di pervasivo, quindi da questo punto di vista non siete obbligati a farlo, questa è la verità. Ma allora continuerete a tenere in piedi i baracconi di questo tipo? Questa è la mia domanda per il sindaco Castelli, che intanto ringrazio perché ha sentito solo fino a questo momento, però dopo il minuto di interruzione, intanto grazie di essere con noi, faccio sentire che è collegato. Eccoci, sono. Dopo il minuto di interruzione il tempo lo do a lei per rispondere a questo e per sentire un po' cosa pensate che avvenga davvero con la riforma Madia. Secondo me quasi niente, però lei naturalmente mi dirà di no. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci tornati qui con i compagni dei Conti della Belva, spunto in relazione annuale, il report annuale sull'universo delle partecipate pubbliche del RS Mediobanca, insieme all'avvocato Alessandro De Nicola della Adam Smith Society, ne abbiamo ricordati alcuni dei tanti punti, lo trovate sul sito, se andate su Mediobanca, RS Mediobanca, trovate sia la quarantina di pagine di slide, sia il testo integrale della relazione, alcuni settori che avrebbero bisogno di interventi radicali, trasporto pubblico locale, al di là dei record negativi di Romani, alcune città in cui sono concentrati in maniera macro evidente problemi di controllate che dovrebbero vedere l'intervento veramente della 101esima divisione, l'aerobrigata d'assalto delle forze armate americane, e che restano così invece a perdere soldi per anni, quindi alcune città, e in generale un problema. Cosa succede adesso con la riforma Madia? Ecco, questa è la domanda che facciamo a Guido Castelli, sindaco di Ascoli, responsabile finanza locale dell'ANCI, e ci dica lei che pensa di questi numeri e di ciò che vi aspetta con la riforma. Allora, il merito innanzitutto del rapporto di Mediobanca è che ci ricorda che i partecipati, per parafrasare Hegel, non sono una notte in cui tutte le vacche sono nere, no. È necessario distinguere. Sì. E questo è il primo tema che mi porta a essere d'accordo con lei quando dice che probabilmente la magia non è così risolutiva. Se qualcuno pensa che la palingenesi di questo problema sia rappresentata dal tentativo di passare da 8.000 a 1.000 a 4.000 a 3.000, beh, io credo che questa sua attesa sarà destinata ad essere colmata di insoddisfazione, per il semplice motivo che bisogna stabilire non tanto quanto debbano essere ridotte numericamente le partecipate, ma come si debba invece creare interesse generale su questo tema, che è diverso tra nord e sud, ce lo dice Mediobanca, che è diverso tra settore e settore, ce lo dice Mediobanca, perché i dati del trasporto sull'igiene urbana anche in parte sono spesso drammatici, però è un dato che parlare di partecipate come di un problema che è approcciabile in maniera unitaria è assolutamente fuorviante. Quindi da questo punto di vista io credo che la magia dovrebbe ben apprendere una elementare nozione, che prima di parlare di riduzione bisogna capire qual è l'obiettivo che ci si prefigge. È l'obiettivo di renderle più efficienti? Allora bisogna fare norme che vadano in questo senso, al di là del numero. È opportuno invece, ad esempio, fare in modo che lo Stato, il sistema pubblico si ritragga dall'economia, come diceva il precedente ospite, allora sono necessarie altre norme, e questo è evidente che prelude la possibilità, ad esempio, di garantire dismissioni che evitino il vecchio rituale italiano secondo cui magari i gioielli di famiglia vanno nelle tasche dei più furbacchioni e vengono invece socializzate le perdite di chi, ad esempio, dei carrozzoni, certo. Dei carrozzoni. Questo è il vero problema, però, non c'è vento favorevole per il marinaio non sa andare. Secondo me la magia non ha chiarito qual è il punto. Ecco, d'approdo. Io posso dire, sposo dalla prima all'ultima tutte le parole che ha detto. Però adesso devo sfidarlo a fare un passo in avanti, caro sindaco. E pochi giorni fa eravamo io e te insieme a un convegno di Confindustria ad Ascoli. Io ti ho sfidato a fare il sindaco, non soltanto il rappresentante dell'ANCI, cioè a riprendere in mano il progetto, per esempio, del trasporto locale, facendo ancora interesse pubblico, non con i soldi delle partecipate, ma con inventiva e con l'uso della legge. Ti ho detto, senti un po', perché non trasformi Ascoli in una delle prime città d'Italia, province italiane, che usa intelligentemente l'economia distribuita, le tecnologie distribuite, e organizzi il trasporto pubblico locale, non pagando stipendi ad autobus che girano vuoti, ma chiedendo la partecipazione collettiva del pubblico e del privato a un modello di trasporto coordinato in maniera diversa. Io ti rimetto sul tavolo pubblicamente davanti a tutta Italia la stessa richiesta: quando tornate a fare politica, amici miei, e non soltanto legittima discussione tra proprietà pubblica e proprietà privata? Allora, sposo così tanto l'incontro con Maffè, che effettivamente mi ha molto colpito e mi ha anche dato ottimi consigli, per dire che non solo Maffè indica un obiettivo possibile, però Maffè deve comprendere che sul piano del trasporto pubblico locale c'è prima una grande questione da affrontare, che è uno scambio di tipo sovietico che da sempre vige in Italia, e non per demerito dei sindaci, secondo cui in pratica al possibile utente si dice: caro utente, io faccio finta di offrirti un mezzo di trasporto valido ed efficiente e tu fai finta di pagare. Questa è una delle ultime residuati tipo sovietico che vivono ancora nella nostra società, che richiede una riforma che non può essere solo affidata all'inventiva, che pure deve esserci dei sindaci, no? Per evitare, per magari far sì che ci possa essere anche sharing economy nel trasporto pubblico locale. Detto questo, bisogna però presidiare questo settore con norme che, ad esempio, stabiliscono che una volta per tutte il ruolo del pubblico è quello di fare regolazione e controllo nell'ambito del trasporto pubblico locale, e quello delle imprese cercare di, come dire, evitare certi disastri come quelli di cui parla pure il rapporto di Mediobanca. Ergo, bisogna arrivare ad un punto di consapevolezza che sul trasporto pubblico locale c'è anche una responsabilità del cittadino profonda, perché non ci si può poi lamentare del fatto che, ad esempio, potrebbero tendenzialmente decuplicare i prezzi dei ticket nel caso in cui si dovesse, come probabilmente si dovrà fare, approcciare il problema così come fanno nel nord dell'Europa, perché noi abbiamo il numero di linee di trasporto più ampio del mondo, probabilmente, ma abbiamo i prezzi più bassi, e la situazione è che la gente non ci va alla fine, sul MUS, sul mezzo pubblico, per la semplice ragione che si rende fuori mercato, perché ormai siamo fuori da questa dinamica, però, che è normale. Però mi lascio dire, Sindaco, che su questo pensare che l'idea di offrire in una cornice anche pubblica, no? La soluzione del problema del trasporto punto punto solo con le linee del trasporto pubblico locale è impossibile, perché il punto punto non può essere risolto, certo, in questa maniera. Quindi ci vuole quello che dice lei per superare, per questo mi piace lei come parla, proprio perché va al punto della questione, le convenzioni sovietiche che sono di carattere politico-culturale che ci sono ancora in Italia, e dall'altra parte estendere l'area di un'offerta pubblica, perché il punto punto ha bisogno di una cosa in cui è la domanda che fa il mercato. Questo mette in crisi la nostra tradizionale impostazione tutta iperregolamentata dell'offerta, lo sappiamo cosa vuol dire avere a che fare, lo capisco, con chi ha strapagato per le licenze dei taxi, e quindi bisogna, se si interviene, riconoscergli la parte non ammortizzata fino a questo momento e così via. Bisogna avere una visione allargata, ma certo è che invece di anno in anno noi ci troviamo a fare questa la puntata sul rapporto Mediobanca nel silenzio generale, cioè non frega niente. C'è anche colpa dell'informazione, secondo me, in questo, che spezzetta città per città la faccenda come se fossero i governatorati dell'impero zarista, ognuno separato dall'altro centinaia e migliaia di verste. Non è così, c'è un problema evidente in Italia nel trasporto pubblico locale e nel trattamento rifiuti e in alcune città. Però mi lasci chiedere a questo punto al mercatista De Nicola, lui cosa si aspetta dalla riforma Madia invece? Ma mi aspetto un po' di cosmesi, nel senso che sarà difficile non fondere le società senza alcun dipendente o con meno dipendenti che amministratori o quelle che sono in attività. Ma questo sarà quelle al massimo, però danno un po' di chiarezza alla contabilità degli enti locali, perché sì, quelle si usano per fare fatturazione fuori bilancio, per essere chiari. Chiusa parentesi. Ma esattamente, quindi io mi aspetto quello e poco altro, perché come ha giustamente ricordato lei, il testo della Madia va forte nei principi ed è debole nelle clausole scritte in piccolo. Le clausole scritte in piccolo, la possibilità di eccezioni, di valutazioni contrastanti e così via, è molto alta, senza contare che comunque sia la valutazione sugli accorpamenti o sulla necessità di dismissione delle varie società, chi prende le parti dell'accorpamento è comunque un nucleo di valutazione pubblico che sta centrale al Ministero, sì, e che quindi potrebbe a sua volta non valutare necessario il tutto. Perciò meglio, come si suol dire, meglio un pugno in un occhio, forse ci liberiamo di qualche cosa che è completamente inutile, ma non è sicuramente questa la svolta epocale. Io credo che dovrebbe esserci una competizione tra, se ci fosse questo coraggio, questa mentalità politica, ci vorrebbe una competizione virtuosa tra varie. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui tornati, attenzione che se permette i pulsanti rossi succedono cose sull'emissione chi ci ascolta, ma eccoci qua tornati in studio i compagni dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, stiamo combattendo con la disposizione dei video, sembriamo una specie di brigata Sagopo. Ci sono dei cavi che tirano in una maniera incredibile. Sì, qualcuno deve essere selvaggiamente accoppiato, qualcuno ha fatto dei giochi erotici, vedo che dall'altra parte delle si ammicca qui, ma ragazzi, ma dove cosa siamo arrivati? Cosa fate con sti cavi? È così. Allora, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di darci alcune opinioni intorno, intanto, ai fatti della Germania, se vi hanno colpiti. Io continuo a grattarmi la testa sulla sproporzione di tutto quello che è avvenuto nel mondo per ore e ore e ore, e poi il diciottenne iraniano con problemi e così via. Questo dà l'idea del meccanismo amplificativo in cui viviamo, perché intorno a noi sono crollati dei pilastri di certezza delle relazioni internazionali, di quello che ci aspetta, e così via. Poi dopodiché, ripeto, abbiamo questo problema delle partecipate locali, credete voi che la riforma media la risolva, e poi ci occuperemo anche del sindacato e devo dire la notizia del giorno è l'ennesimo braccio di ferro tra pezzi dello Stato sul fatto se oggi il traffico aereo si dovesse paralizzare o meno in un sabato di luglio. Il ministro Del Rio aveva detto no, intervengo, e il governo interviene dicendo lo sciopero si rinvia. Il TAR del Lazio dice manco per idea, caro ministro, lo sciopero si fa. A quel punto interviene il governo a livello più elevato e dice neanche per idea, lo sciopero non si fa. È la solita commedia. In Italia noi non abbiamo principi chiari su questo, e quindi ecco che il sindacato diventa un pezzo del problema, ma la politica è divisa persino dai giudici. Vediamo come la pensate voi su alcune di queste cose. Antonio da Pescara, prego Antonio. Buongiorno Giannino, a buongiorno. Tutti i ospiti che conducono la trasmissione. Sì. Mi ha colpito e mi ha fatto riflettere moltissimo, visto che sono un cittadino e usufruisco dei servizi pubblici locali, sì, la riflessione che ha fatto il dottor De Nicola, mi sembra, della sì, Society, quando ha citato i dati di Venezia ultra positivi. E mi chiedevo, ricordo che appunto l'AVM, che è la municipalizzata sì, di Venezia, su questo copre il 73,8% dei suoi costi con ricavi di mercato, mentre per esempio l'AMT di Catania il 9,6%. Sì, ecco, c'è Catania di Enzo Bianco, il 9,6% rispetto al 73,8%. Allora, lei diceva. Allora, io siccome le trasmissioni come la sua mi inducono a riflessione, questo è un fatto positivo per me, per la mia incultura, non posso avere la cultura su tutto, ma mi induce a riflettere. Allora, a Venezia, lo sappiamo tutti, c'è l'acqua e c'è il mare, e quindi c'è un ostacolo fisico che ha messo il buon Dio, per chi ci crede, che ovviamente nessun comune può contrastare, a parte adesso il Mose. Mi chiedevo, ma se a Catania ponessimo gli stessi vincoli fisici, una ZTL, l'amministrazione comunale che dice, va bene, volete accedere al centro urbano di Catania? Io vi metto in condizione di avere un bus navetta dalla periferia, quindi metto un parcheggio, non so, vicino al cimitero, vicino alla periferia più imminente verso il centro urbano, gratis la navetta con sostenibilità, quindi o elettrica o metano, come ad esempio ha fatto già la città di Pesaro e funziona tantissimo, ma ovviamente dove tu parcheggi o lo faccio calmierato o addirittura gratuito, perché tu nel frattempo mi crei un indotto, tu cittadino, e quindi non sei una mucca da spennare, perché Giannino, in questa riflessione sul trasporto pubblico locale, mi pare che noi cittadini abbiamo una colpa più grande, non voglio scaricare sempre sull'amministrazione, no, certo, perché tanto buttarla in caciara, e chi è che non lo sa fare, anche una persona non avveduta, però mi chiedo, se portassimo l'esperienza di Venezia naturale, cioè questo ostacolo fisico creato dal mare, e quindi le strutture pubbliche per forza tu le devi usare, perché sennò vai a piedi, mi chiedo se... No, capisco la sua logica. Ma è un buon punto, se ci pensi, anche Londra pensa così, è una road pricing naturale. Road pricing, cioè, naturale, siccome esatto, non puoi non pagare per usare le vie d'acqua, e guarda, caro ascoltatore, lei dice una cosa sacrosanta, sì, dal punto di vista microeconomico, il vero problema non è la moral suasion per far pagare i biglietti, ma è invertire i prezzi relativi fra l'uso opportunistico delle strade e l'uso opportunistico del trasporto pubblico. Se c'è un mercato del prezzo di uso di una risorsa scarsa, anche queste cose funzionano. Allora, Venezia l'aveva capito 800 Antonio anni fa. Antonio ci pone un problema, invece del numero delle partecipate, per esempio il modello di pricing su limitazioni fisiche, perché limitazioni fisiche non sono solo quelle marine, sono le superfici attraverso cui passano i flussi del traffico e così via, questo deve far parte di una riflessione nazionale di settore, invece non c'è, Mario. Però io devo dire questo, allora, benissimo, noi facciamo il confronto della incidenza dei ricavi sui costi, però guardiamo numeratore e denominatore. Certo, bravo. Cioè, quante sono le municipalizzate di TPL, di trasporto pubblico locale, soprattutto in alcune zone italiane che non segnaliamo, che hanno la funzione di ammortizzatore di welfare? Quindi probabilmente, io non conosco i dati, facciamo un nome, di Catania, perché c'è solo il 9%, o se questi dati sono frutto del fatto che c'è un eccesso di costo del lavoro, che deriva dal fatto, non da stipendi unitari, ma dal fatto che c'è un grosso assorbimento di manodopera. Allora, attenzione, perché in questo paese, Oscar, per tradizione, noi abbiamo la dinamica del tassa e spendi. Io non vorrei, se noi cominciamo a dire alla gente, ma voi avete solamente il 9, 10, 12, 15% di biglietti che vi coprono i costi, E questi costi sono fatti da organici gonfiati con finalità di welfare. Dicono, oh benissimo, ti triplicano il prezzo del biglietto e facciamo l'ennesimo tassa e spendi. Per cui bisogna guardare parametri di efficienza gestionale, cioè la produttività e la quota di ricavi per ogni dipendente di municipalizzata. Perché se no noi attendere, perché lì finiremo, faremo esplodere il costo dei biglietti, pur in presenza magari di una riduzione della evasione, perché metteremo controllo fisico, però finiremo sempre a coprire costi che derivano da una funzione di welfare impropria delle municipalizzate. Ragione. Venezia spennano anche i turisti da frequentatore, insomma, i biglietti. Certo, sì, però è un caso più unico che raro, diciamo. L'ATAC, Roma è il faro, il polo, insieme a Venezia, non è che siano pochi i turisti, eppure ATAC è... meno della metà della percentuale di copertura dei costi del mercato di Venezia. Vedere il costo del personale per fatturato. Se in cima no, una variabile indipendente, ovviamente l'asintoto non lo raggiungeremo mai. Devo dire che fra le due, visto che sono stato recentemente tutti e due, evidentemente il servizio di Venezia è anche un ottimo servizio dal punto di vista... per il turista, mentre quello romano per il turista è qualcosa di... direi comunque per avere l'altro parametro nel trasporto pubblico, la società senza avere la particolarità di Venezia né del turismo né del vincolo obbligato dell'utilizzo del mezzo, cioè la TM di Milano, siamo comunque a più che rispettabile 61% costi coperti da ricavi, ripeto, percentuali doppie rispetto alla media di settore italiana, che è di poco superiore al 30%. E poi ci sono evidenti problemi del sud, a Roma, in Sardegna, eccetera eccetera, che meriterebbero una riflessione precisa, che manca sempre completamente. La riforma Madia non prende in esame la profonda riflessione sul modello organizzativo del trasporto urbano, che non è tocchiamo i prezzi dei biglietti, ma interveniamo sull'uso di risorse scarse coordinando diversamente anche i cittadini, i quali non vanno pregati di pagare il biglietto, vanno coinvolti, come sta succedendo in molte città del mondo, a prendersi cura di questo percorso. Beh, poi c'è anche una, secondo me, dal punto di vista così organizzativo, c'è anche una questione dovuta alla grandezza della città, perché è evidente che in un posto come Milano girare in metro sui bacini ottimali di mercato, cioè, adesso vedremo se nella Milano città metropolitana e in tutte le città metropolitane, visto che sono 10, almeno mettono insieme tutte le diverse aziende che fanno nella grande città metropolitana di Milano. Sono 7 aziende diverse che non hanno neanche il ticketing comune attualmente, non voglio dire l'unificazione dei servizi e l'ottimizzazione dei mezzi professionali, neanche il ticketing comune hanno. Prendi il biglietto e sto a Monza, parlando e di Milano, centro, ecco, per essere chiari. Sentiamo come la pensa Sandro da Ferrara. Sandro, salve, buongiorno. Buongiorno. O io vivo in un paese diverso oppure c'è qualcosa che non funziona. Le municipalizzate per anni e ancora adesso sono serbatoio di voti. Oh. Le persone che ci lavorano nell'80% dei casi sono messi lì politicamente. I dirigenti sono tutti politici che hanno fallito nella loro vita, nella loro carriera politica, che non sono riusciti ad andare in provincia, in regione. Non c'è niente da fare. Cioè, questi qua è il problema principale. Voi trovate delle soluzioni giustissime, modernizzazione. Però lei dice dimenticate il punto di fondo. Dimenticate solamente che è un serbatoio di voti. La gente che non va a lavorare nelle municipalizzate, i dirigenti che non fanno profitti, che prendono stipendi da 200.000 euro all'anno, con delle aziende che perdono 2, 3, 4, 5 milioni di euro all'anno. Ma nel mondo privato esisterebbe? No, certo. Ma ha ragione Sandro. Questa gente è gente che ha fallito nella propria vita. Ha ragione Sandro, solo che a dirla così ci direbbero che noi siamo a quel punto dei populisti, eccetera, eccetera. Invece lei ha assolutamente ragione. Questo è il punto. Solo che la politica su questo, mi dispiace dirlo, destra, sinistra, sopra, sotto, nord-est, nord-ovest, non ci sente. Però io ho conosciuto dirigenti di municipalizzate bravissimi, molto impegnati, quindi non posso assolutamente fare di ogni erba un fascio. No, però... e persone, tra l'altro, che si pongono queste domande e sono disponibili a farlo. La verità è che la politica non ha interesse a ridiscutere il progetto, non sull'accorpamento, sul controllo pubblico-privato, a usare la legge come sistema di coordinamento di una società complessa come quella metropolitana. Oh. Sentiamo come la pensa invece Zeno dalla provincia di Modena. Buongiorno Zanino, mi chiamo Zeno, abito a Mirandola. Qui è una zona che un po' ha anticipato il signore di Ferrara di prima, però io volevo mettere in risalto che stanno vendendo una multiutility come IMAX, che è inattivo, da un dividendo, la gente, cioè i comuni attengono questi dividendi tutti gli anni, perché è una multitudine al servizio di tutti i comuni qua dell'area nord di Modena, per comprare un debito, cioè si compra, si vende un credito per comprare un debito, praticamente c'è l'offerta di ERA che comprerebbe il 51%, però sale meglio di me che era a in passivo. Perciò siamo arrivati a questo punto qua, che si vende un credito per comprare un debito. Non è che si vende un credito, ma si vende un asset patrimoniale. Era, se sì, ma è un credito, perché tutti gli anni porto a casa. Sì, ho capito, però adesso al di là di questo. Sentiamo Mario che parla di ERA. ERA in passivo, scusi, La stessa cosa l'hanno fatta con i trasporti pubblici, accorpando Modena, Reggio e Piacenza. Ci hanno tolti i servizi e aumentati i biglietti. Perciò io non lo so, arrivati a questo punto qua, se si può andare avanti così. Allora, a parte il fatto che, ripeto, quel signore di Ferrara l'ha già detto, però a questo punto qualche cosa deve muovere. Ci sono delle multitudini che sono buone e vanno salvaguardate. Esatto. Tra l'altro nell'area, diciamo così, rossa, centro italiana, è una delle poche, insomma, era, per chi la conosce, è uno dei pochi punti di riferimento tra le società quotate, da questo punto di vista. Quando ci hanno provato a Nord-Ovest, IREN non è riuscita altrettanto bene, perché non si sono mai messi d'accordo su alcune cose che imperativamente lì ad ERA invece decideva il partito, perché, per essere chiari, poi questa era la grande cosa. Sentiamo ancora come la pensa invece Nico da Vercelli. Nico. Pronto? Deve abbassare la radio se ce l'aveva alzata, perché sentiva l'eco. Ci dica. L'ho spenta adesso la radio. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Senta, io telefonavo per quello che voi continuate a dire su Montepaschi. Allora, io capisco benissimo che Montepaschi non sia messo bene. Capisco benissimo che tutte le banche non siano messe bene, quasi tutte. Capisco benissimo che le banche tedesche, Deutsche Bank in testa, non siano messe bene, perché sono piene di porcherie, eccetera, eccetera. Però adesso noi non abbiamo più possibilità di prendere niente che ti possa dare un piccolo, piccolo reddito, grazie a Draghi, o grazie a non lo so a chi, grazie a Lehman Brothers, grazie a tutto quello che volete. Io non capisco niente, so solo che non riesco a portare più a casa niente con quei pochi soldi che ho preso di liquidazione, che ho cercato di far fruttare con delle cose normali. Adesso io non credo che Montepaschi possa fallire, perché salterebbe completamente l'Europa. Quindi Nico, perdoni, adesso lei ha detto, e mi dispiace, che non riesce, insomma, non sta bene col quadro dei suoi redditi. Questo, a me dispiace, ma se spende questi soldi, Nico, no, cosa mi fa un po' di PIL, scusi, quanto PIL ha fatto quest'anno? Lo 0,6. Mi dispiace molto, ma chi è in problemi di reddito ovviamente merita tutto il nostro rispetto, Albert. Detto questo, però, perdoni, con i suoi problemi di reddito, Siena non so se c'entra, ce lo spiegare perché, ma non abbiamo capito. Secondo, no, Siena, mi scusi, Siena come una qualunque, siamo sopravvissuti alla tragedia delle banche greche, ai problemi delle banche portoghesi, siamo qua. E l'idea è, se ci sono delle regole buone che tengano conto delle difficoltà complessive del codice civile, del rispetto di tutte le classi di investitori su piedi di parità, se siano italiane o non italiane, ecco, e allora è portare avanti queste cose qui. Guardi, Siena è una condizione tale, non salterebbe affatto l'Europa. Il problema è per chi ancora c'ha qualche soldino dentro a Siena rispetto ai tanti che ce ne hanno rimessi. E credo che il problema è più che altro storico istituzionale a Siena. Guardi, quando le raccontano che esploderebbe la terra per Siena, posso prendermi questa responsabilità come giornalista, le raccontano una cosa che non sta né in cielo e né in terra, purtroppo. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta con i compagni dei conti della Belva, Oscar Giannino, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio. Allora, continuiamo, c'è ancora un ascoltatore, vedo Piero d'Alessandria. Piero, prego, Piero. Sì, pronto? Eccoci. Buongiorno. Buongiorno a lei. Aspetta, volevo dire, un suo ospite ha detto che conosce dei dirigenti di partecipate. Carlo Alberto Carnevale Maffè ha detto, sì. Ed è vero, ne conosco anch'io. Gente che si dà da fare, eccetera. Ma il problema non sono i dirigenti ma sono i presidenti e i consigli, che sono tutti dei politici locali trombati, che vanno lì per avere il loro stipendio da 100, 120 mila, 150 mila euro all'anno, o il gettone di presenza per i consiglieri. E questo è il problema, e credo che sia così per, da tutte le parti. Allora, io non amo molto le generalizzazioni. C'è un problema evidente in Italia, cioè quello, il motivo per cui nel decreto Madia c'è la promessa numerica ed è scritto il modo in cui quella promessa numerica di diminuzione della partecipata non verrà raggiunta, e è scritto così senza un ragionamento complessivo industriale sui maggiori settori le cui perdite sono ogni anno documentate e che non interessano alla politica. Non si fa un ragionamento industriale ed è quello che interessa più a noi. Ma ragazzi, non stupitevi che ci sia un problema che Public Choice ci indica da decenni, cioè Buchanan, cioè, che ovviamente per i partiti è una tragedia rinunciare a queste cose qua, per definizione bisogna saperlo. La differenza è che prima c'era una rappresentanza politica che poneva questo problema, adesso non c'è più, sono tutti d'accordo sul fatto che è meglio tenerle. A questo punto, a proposito di problemi risolti nel nostro paese, vi avevamo preannunciato all'inizio della puntata un blocco dedicato a una riflessione fuori dai denti sul sindacato. Noi l'abbiamo incardinata su questa vicenda del giorno che trovate sui giornali, cioè la colluttazione molto seria che c'è stata ieri tra diversi organi dello Stato in ordine allo sciopero dei controlli di volo che era stato dichiarato per oggi. Il ministro Delrio aveva emanato un'ordinanza, no, rinviatela, il TAR aveva dato torto, manco per idea, signor ministro, il diritto di sciopero viene prima del diritto alla libertà del trasporto in un sabato di luglio, il governo ha intignato e si è andato quindi all'annullamento dello sciopero, il che però la dice lunga su quale sia l'interpretazione in alcuni settori da parte di alcune sigle sindacali su che cosa venga prima e che cosa venga dopo rispetto ai diritti. E allora ci siamo posti il problema di approfittare di un'occasione. L'occasione è quella di un libro, editore Castelvecchi, e a scriverlo è un sindacalista, è il capo dei meccanici della CISL, e il titolo di questo libro è un titolo che va al nocciolo della questione, cioè si chiede, titolo, abbiamo rovinato l'Italia? Affronta toro per le corna, cioè il fatto che moltissimi italiani dicono ogni volta che c'è un problema di qualunque tipo, cioè, ma il sindacato, ma pensano solo ai fatti loro, alle loro gerarchie e ai soldi che si è dato Bonanni, eccetera eccetera eccetera, ma dai, ce ne fosse di meno sarebbe meglio. E non si nasconde dietro fronte a questo. E Marco Bentivogli, che è con noi, secondo me, io lo ringrazio anche per questo, va al nocciolo della questione. Buongiorno e grazie di essere con noi, Marco Bentivogli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Naturalmente la sua risposta è no, però a me interessa capire quanto per un sindacalista di mestiere l'aria che tira tra gli italiani sul sindacato conti, cioè ne siete consapevoli, perché sennò lei non l'avrebbe scritto così questo libro, mi pare già un bel passo avanti. No, sicuramente noi partiamo da questa consapevolezza. Se io accendo un microfono dentro un bar, il sindacato appunto è quello che ha rovinato l'Italia. Bisogna però separare i luoghi comuni che ci sono su tutto, anche sulle cose più pie e più sante del paese, e invece quelle che sono ragioni vere per cui le persone non vedono il sindacato probabilmente come un soggetto utile di rappresentanza, di innovazione, di cambiamento. E per questo la mia risposta è sicuramente no, penso però che ci siano tante cose su cui non siamo stati assolutamente capaci di risolvere molte contraddizioni. Senta, c'è un punto che secondo me è importante, mi rendo conto, quando si appartiene a una grande confederazione è un po' delicato rivendicare i meriti della propria parte intesa come categoria rispetto a quella delle altre, perché in ogni grande club viene prima la bandiera del grande club che tutti accomuna e poi la possibilità di articolare ciascuno il proprio discorso. Però ai miei occhi, lo dico da osservatore, c'è chi si è comportato in un certo modo e c'è chi in un altro, anche all'interno delle confederazioni. Secondo me è un problema trasversale che vale per tutti i grandi sindacati italiani, quindi non vale solo per la CISL. Però nella CISL voi siete reduci da anni e anni in cui avete fatto contratti apparendovi a un discorso chiaro, c'era chi li firmava quei contratti e c'è chi no, la FIOM, per essere chiari. In altri pezzi del mondo, nella rappresentanza pubblica e così via, non vale proprio la stessa logica. Allora, quello che secondo me conta come difficoltà è che voi avete una difficoltà l'avete avuta negli anni a spiegare perché come meccanici vi comportavate in un certo modo e perché tanti altri pezzi del sindacato, la vostra stessa confederazione, non si comportava allo stesso modo. Sbaglio secondo lei? C'è una parte di verità, ci sono situazioni in cui spesso le controparti mettono insieme e costruiscono l'unità impossibile, come sta facendo anche Federmeccanica in questo momento. Proprio ieri abbiamo firmato ancora una volta, e la FIOM si è sottratta dal negoziato e dall'accordo, un contratto nazionale delle piccole e medie imprese di confini, per cui noi non abbiamo cambiato idea, noi pensiamo che il sindacato debba avere un solo faro, e cioè quello che è il merito del negoziato e dei risultati possibili, nient'altro. Quando arriva qualcosa di questo nient'altro, si smarrisce troppo spesso la strada di un sindacato che deve essere al 100% sindacato, senza commistioni di altri interessi prepolitici. Spesso nel pubblico c'è stato un ruolo molto utile dei governi a costruire l'unità sindacale. Se pensiamo ai governi di centrodestra e di centrosinistra, hanno, a mio avviso, sbagliato nella politica che riguarda il pubblico impiego. Perché? Perché attaccare in maniera lineare i fannulloni e gli operosi premia i fannulloni. Questo è un tema sostanziale. Con Federmeccanica noi in tutti questi anni, su 6 contratti nazionali, solo 2 sono stati unitari, o meglio con anche la FIOM. Questo perché noi abbiamo sempre cercato di portare ai lavoratori in maniera molto pragmatica dei risultati. Ecco, questo credo che sia l'aspetto più importante. Lo stesso riguarda, per un, si accennava prima allo sciopero, ci sono 2 visioni radicalmente opposte nel sindacato. C'è chi lo considera uno strumento, io quando non ho il negoziato, quando non si fa la trattativa, ricorro allo sciopero, e c'è chi, per sentirsi vivo, vitale come il sindacato, proclama sciopero. La cosa peggiore è che ultimamente, anche se questo non ha grosse adesioni tra i lavoratori, diventa quasi un esercizio ginnico rutinario, esatto, in cui, come è avvenuto anche in questi mesi, in Fiat, in FCA, 8 lavoratori su 2000 che scioperavano e si continuavano a proclamare scioperi. Ecco, come noi veniamo da una cultura diversa, quella che ci insegnò Don Milani, appunto, lo sciopero è un grande strumento di solidarietà in cui si sacrifica un pezzo di salario per qualcosa che non riguarda solo il singolo. Sprecarlo così ci però c'è un altro contributo che state dando, che va sottolineato, cioè quello di fare ricerca e portare dati. Io questo devo dire lo apprezzo molto di FIM, perché è uno dei pochi sindacati che ha capito che c'è bisogno tantissimo, in termini di governance complessiva dell'economia, di mettere dei dati sul tavolo. Questo lavoro che avete fatto, secondo me, è la più bella novità. Un sindacato che passa dall'ideologia ai numeri, ai dati, alle statistiche, alle interviste, e fa portare la voce dei lavoratori non con l'interpretazione ideologica dei suoi rappresentanti, ma con, dei metodi di rappresentatività statistica. Questo per me, Bentivogli, va commentato bene, perché è un bel simbolo metodologico da mettere sul tavolo. Può spiegarci cosa avete fatto come FIM, per esempio, proprio sul mondo del manufacturing? Ma noi partiamo da una consapevolezza, cioè dalla necessità che dobbiamo essere sempre adeguati noi, non il mondo, a ciò che accade. E su questo, cosa è accaduto nel mondo Fiat? Noi siamo arrivati sempre in ritardo. Io ricordo sempre, Melfi è stata affrontata sindacalmente 20 anni dopo, è stato un assurdo, la Lean Production arrivava e noi 20 anni dopo abbiamo pensato a quale sindacato fosse utile nella fabbrica snella e integrata. E col WCM, che è la forma di organizzazione e lavoro della FCA vincente, perché adesso la gran parte del contributo alla piccolissima ripresa italiana è appunto dell'auto, abbiamo detto: beh, giochiamo d'anticipo, portiamo di nuovo, apriamo le orecchie tra i lavoratori con i politecnici e ragioniamo su qual è la percezione, come vivono, perché in lo stesso momento gran parte dei vostri colleghi giornalisti, accademici, grandi professoroni universitari spiegavano che invece quella era la fabbrica della schiavitù che riemergeva dopo il Novecento, e sono emersi dati assolutamente interessanti, luci ed ombre. Trovare lavoratori di Pomigliano, che io ricorderei a tutto cos'era Pomigliano quando c'era la mitica Alfa Sud pubblica, un vero e proprio suc più che una fabbrica, lavoratori che dicono: io più avanza questo sistema di organizzazione del lavoro, sì, aumenta lo stress, vorrei più partecipazione, però aumenta anche il mio ingaggio cognitivo rispetto al lavoro, c'è un maggiore protagonismo. E poi proprio quello che molti professori universitari non volevano sentirsi dire, il lavoratore che diceva, di tutti gli orientamenti sindacali, sono contento di lavorare in una fabbrica pulita, organizzata, sicura e che funziona. Questo anche per squarciare una cultura retro, molto alla pace nel mondo dell'informazione, per cui il lavoratore deve odiare la fabbrica. Cioè questa idea della fabbrica infernale che è assolutamente assurda. Una persona vive almeno 8 ore della propria giornata in quel luogo, beh, un sindacato che si rispetti la deve far bella, deve fare in modo che le condizioni siano positive. E questo stesso approccio noi lo stiamo applicando su tutto, la formazione continua, con un esame duro di quella che è. Noi pensiamo che sia il diritto più importante per il lavoratore, la formazione. E noi stiamo facendo un'analisi dura di quella che è la formazione negoziata, cioè quella a cui noi partecipiamo con la nostra pratica. E lo stesso su Industry 4.0. Quando abbiamo iniziato a lavorarci 1 anno e mezzo fa, hanno detto qua questi soliti futurologi della FIM, in realtà anche lì, insomma, se non anticiperemo con un nostro contributo la costruzione dell'architettura della nuova manifattura 4.0, noi appunto, come dicevano i nomadi, non ci saremo. Non ci saremo. Allora... No, io devo rendere atto al fatto che il libro di Bentivogli, che io vi invito davvero a leggere, ripeto, abbiamo rovinato l'Italia a Castelvecchi, perché per l'informazione, per chi fa il mio mestiere, ma io sono ultimo, in ordine di credibilità ci mancherebbe altro, c'è una bella riflessione da aprire, perché se voi rileggeste adesso tutte le... lo spazio, i toni, i dati, dai titoli ai pezzi, a tutta la vicenda Fion Fiat, beh, ci sarebbe da riflettere sul fatto che questa eroica epopea che l'informazione italiana in maniera trasversale è, attenzione, non sono gli organi più non è solo il manifesto, solo fa il manifesto, ok, era molto trasversale. L'eroica epopea che è stata dipinta per anni come se fosse l'ultima trincea di una battaglia per la civiltà, per la dignità dell'uomo addirittura, della duplicità del binario scelto da Fiom, no, non si firma, si contesta tutto, poi via giudiziale, anche via giudiziale, cioè si impugna tutto, ecco, questa roba qua retrospettivamente ci dovrebbe far grattare la testa, cari autorevolissimi colleghi di grandissime testate che avete scritto delle cose che oggi rilette vi farebbero rabbrividire, soprattutto rispetto al fatto che poi l'unica voce, come ricorda Mario da un bel po' all'inizio delle trasmissioni, mentre tutti i settori sono diventati prima di nuovo flat e poi a segno negativo, beh, insomma, il contributino di questa roba che è l'auto al PIL italiano non è tutto trascurabile nella ripresina italiana, e lo dico con un'espressione di perifrasi naturalmente molto contenuta, perché ha cambiato il modello organizzativo, ecco, anche però, se non di molto, ma l'ha cambiato pure, cioè, no, non prendo per buone tutte le cose che dice Marchion, perché non mi posso dimenticare che coi numeri lui è un prestigiditatore, ha annunciato sempre obiettivi poi non mantenuti, ma detto questo, però io sto parlando delle responsabilità dell'informazione nel descrivere chi invece ha avuto, cari colleghi, le sedi bruciate per questa vicenda qua, e per come noi raccontavamo l'eroica epopea degli amerindi contro il generale Custer, ecco, le sedi bruciate, la gente picchiata, e però non bisognava parlarne, io perché in questo caso sembrava il sindacato giallo dei tempi di Valletta, che chi lo dice non ha la minima idea di che cazzo sta parlando, scusate se sono un po' brutale e perché vengo da Mirafiori e invece un po' io ce l'avevo l'idea di che cos'era il Phalanx in cui mi portavano in prima elementare a vedere le presse che da 30 metri andavano giù a fare il laminato. Non stiamo parlando di quella roba lì. Abbiamo la pausa, ma io sono in conflitto di interessi, essendo un metalmeccanico. Perché hai la tessera CISD, no, e non lo vuoi ammettere. No, perché sono un metalmeccanico datoria. Ah, sei un perfido capitalista, imprenditore. Però il vero problema è che la maggior parte dei tuoi colleghi la fabbrica l'hanno vista quando l'hai vista, dai, tu con le presse del 1600, ma non sanno. No, e non hanno visto le fabbriche di oggi. Sto zitto, perché quando ci furono alcuni di questi scioperi posti poi a fondamento di alcune sentenze, tipo Cassino, il collega che scriveva il pezzo non aveva l'idea di com'era la sensoristica in linea per cui si bloccava la linea. E di che cazzo scrivi se non l'hai visto nemmeno mezza volta? Posso dire, non dico capra perché ne ho rispetto, scusate, torniamo dopo la pausa. Fratelli d'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte racconti della belva. Eccoci tornati qui in diretta con i compagni dei conti della belva. Tra noi si è scatenata una pausa, una certa animata discussione, visto che io poi ogni tanto alzo il tono, ma insomma ho ricordato anche qua che non è che proprio con Federmeccanica, Fiat fuori Confindustria, così le idee fossero chiarissime, per così dire, su come bisognava rompere con contratti di tipo nuovo. E a questo punto poniamo una domanda di tipo di principio al nostro Marco Battivoglio, per far capire a chi ascolta un altro punto di fondo. Ma voi come la pensate rispetto all'evoluzione nel tempo di uno dei pilastri del nostro ordinamento? Il nostro ordinamento è che i contratti valgono erga omnes. Ci è stata negli anni una certa evoluzione su questo erga omnes, su quali presupposti di rappresentatività si fonda in termini di percentuali minimi, chi vota cosa. In Italia è passata l'idea che naturalmente i più democratici sono quelli che chiedono il referendum tra tutti. Io sono dell'idea invece che ci vuole un sindacato che rappresenta chi è iscritto, i contratti li fa per chi è iscritto, vota chi è iscritto, non è che vota il più movimentista vince, perché questa è una roba che rende i contratti ingestibili, inesigibili, le aziende dal punto di vista anche dell'impresa le rende non gestibili, perché io con chi ho a che fare? Ho a che fare con chi rappresenta chi e vedo con lui, o ho a che fare con chi mi arriva poi dalla confederazione più bravo a intortare e a quel punto col referendum dei non iscritti non vale niente il contratto? Allora, la vostra impostazione quale è su questo punto? Innanzitutto noi pensiamo che in Italia siamo assolutamente d'accordo, spesso vittime di una sbornia plebiscitaria che confonde la democrazia con alcuni embrioni di democrazia diretta non regolata. I referendum spesso che si fanno sugli accordi sindacali sono molto simili a quelli che evoca la gran parte dei populisti nel mondo, in questo paese, cioè buttare le persone sullo stomaco contro qualcosa, e la consapevolezza su che cosa si sta votando spesso è assolutamente difficile. Io non lo dico perché siamo particolarmente illuministi e pensiamo che debbano solo alcune avanguardie valutare le cose, perché in gran parte del mondo la base elettorale massima che vota un accordo sindacale sono gli iscritti, non in tutti i lavoratori, perché appunto gli iscritti sono coloro che sono responsabili di sostenere con la loro scelta personale il sindacato e il loro contributo. Parliamo tutti della Germania, dei paesi scandinavi, ovunque sono gli iscritti al sindacato che votano. In Germania e nei paesi scandinavi gli iscritti sono titolari di particolari diritti contrattuali, del tutoraggio che c'è nell'alternanza scuola-lavoro e del sistema di tutela di un pezzo di welfare riservato ai lavoratori. Tra l'altro proprio questo aspetto è stato uno degli incidenti che la FIOM fece nella sua battaglia totale, supportata appunto fin anche dallo stesso giornale della Fiat, tocca dirlo, quando rispetto ai nostri accordi fece un'istanza di fronte a un giudice perché i contratti nazionali da noi sottoscritti non fossero applicati agli iscritti alla FIOM. Un giudice di Termoli diede ragione a questa impostazione e Fiat disse: beh, sono conseguente all'azione giudiziaria, pertanto applicherò questa decisione ai lavoratori Fiat iscritti alla FIOM e detrarrò i soldi dei contratti. Successe il finimondo, per cui capite spesso che l'erga omnes copre tante irresponsabilità che ci sono rispetto alle scelte e le responsabilizzazioni delle organizzazioni collettive, ma anche delle persone. Ma questa non è una cosa da poco, far capire che c'è chi si batte per... In Germania, come lei evoca il fatto che siano staccato e degli iscritti, i contratti li fa per gli iscritti, l'esigibilità è sugli iscritti, e sono gli iscritti che votano per gli scioperi in settori generali a percentuali più elevate. Mi sembrano regole precise, chiaro, non so come voglio dire, mentre noi da un'idea generale... l'erga omnes a me pone problemi di diritto da sempre, ma questo perché io sono, mi riconosco in un'altra categoria. Facciamo discendere il fatto che poi non si capisce bene su quali presupposti di rappresentatività andiamo. La radice, cari ascoltatori, degli scioperi proclamati nel trasporto locale e pubblico da siglette sindacali alla ricerca di evidenza deriva dal fatto che non ci sono requisiti rigorosi, elevati sulla rappresentanza per poter proclamare uno sciopero con il voto, e quindi ci si fa la visibilità e gli iscritti in azienda attraverso questa procedura che blocca regolarmente tutto. Questo è un problema generale di conflitto tra due principi, no? Lei come la pensa? Ma assolutamente, beh, nel caso del trasporto pubblico e non solo, ci sono stati casi assolutamente inaccettabili, perché non solo l'unico potere contrattuale, io lo scrivo nel libro, spesso il potere contrattuale che si esercita riceve una forza non tanto per l'azione dell'organizzazione dei lavoratori nei confronti della controparte datoriale, quanto dei cittadini. E questo, quando si smarrisce il fatto che tra i cittadini ci sono pendolari, lavoratori, cittadini che hanno bisogno di mobilità, allora su questo sono state sottoposte tutte queste normative a delle regole per via legislativa. Se però bastano pochi lavoratori che aderiscono a un piccolissimo sindacato per bloccare una città, questo è intollerabile. E poi è ovvio che il nostro è un paese in cui si evoca la Costituzione anche nelle assemblee condominiali, però sappiamo tutti che è ridicolo, perché anche il diritto di poter andare a lavorare è un diritto, esatto, sono completamente d'accordo con lei. E si è malati, allora questa protezione costituzionale al diritto di sciopero è certo assoluta, bla bla bla, però deve tener conto anche del fatto che ci sono tante persone, ci sono tanti interessi. Mi ricorda, io ho solo un parallelo nel metalmeccanico, negli impianti a ciclo continuo come nella siderurgia. In alcuni impianti bastano due persone salta 40 tutto. Per far bloccare tutto, cosa che non avviene in altre aziende a flusso teso con altri tipi di produzione. E lì però il conto con la rappresentanza, e per cui quante persone aderiscono allo sciopero avrà, però per molti l'importante è proclamarlo lo sciopero. Per la mia tradizione sindacale, se proclamo uno sciopero io la notte precedente non ci dormo nel sapere se riesce o non riesce e su cosa il giorno dopo farò per dare risultato a quell'azione. Per altre culture sindacali e politiche in questo paese questo è assolutamente non necessario. Allora, io devo dire a chi ci ascolta, ripeto, abbiamo rovinato l'Italia. Se ve lo promuovo non è perché c'ho i diritti, è perché mi ha molto colpito, perché seguo chi l'ha scritto da un po' di anni, da osservatore. Non faccio mistero nel dire che mi auguro che presto abbia responsabilità anche migliori, perché, cari ascoltatori, proprio chi di voi dice... E su molte cose condivido, ma come Giannino, il sindacato è un peso morto dell'Italia, cioè. Allora iniziate a leggere questo libretto dal capitolo 11. Il capitolo 11 sono poche paginette che dice, propone i luoghi comuni di cui fare giustizia sul sindacato dal suo punto di vista, e vi stupirà capire per esempio che il primo di cui dice, e piantiamola di usare l'espressione macelleria sociale per dirne uno, oppure piantiamola di dire a proposito delle lotte sul lavoro eccetera, eccetera, uniti si vince, mica è vero, dipende, e anche qua ci mette la sua interpretazione, oppure è piantatela, cari giornalisti, di dire compromesso al ribasso quando c'è qualcuno che vi dice che bisogna essere più duri e vi fa gli esempi, oppure i diritti acquisiti. Allora io, un sindacalista che dice che i diritti acquisiti sono un'espressione da non usare, perché bisogna che ci si intende chiari, e piantiamolo, altrimenti fare i titoli sempre, pagano sempre i soliti noti, lo smantellamento dello Stato sociale, perché bisogna avere una logica per intervenire in materie come la previdenza e così via. Io dico che sindacalisti così, secondo me, fanno bene non al loro settore, alla loro azienda, fanno bene alla qualità complessiva di questo paese, perché servono a incazzare in primis controparti, sì, anche gli imprenditori, e come no, che per primi non ragionano come bisognerebbe ragionare. Non abbiamo ragionato con Marco Bentivoglio del contratto dei meccanici che è aperto, ma apposta, perché il libro pone un problema generale. Grazie a Marco Bentivoglio, e comprate questo libro e vedrete che poi ne ridiscutiamo, e forse nel sindacato c'è qualcosa, gente. Si muove, no, sì, ma non forse, certo, c'è, ma dico, voi che pensate diversamente, anche lì bisogna individuare i pezzi su cui costruire la nuova Italia. Dico anche lì, Marco Bentivoglio mi morderebbe la testa, cioè anche lì, cominciando da lì. Però io, bisogna parlare a chi invece vi vede come quelli che sì, avete rovinato l'Italia. Grazie a Marco Bentivoglio, e noi torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, ma è piaciuto ai nostri ascoltatori? No, non è piaciuto ai nostri ascoltatori. Ma sì, qualcuno scrive che se praticamente un sindacalista la pensa come Oscar Giannino, siamo alla frutta. Ma perché confondono, secondo me? No, secondo me confondono. Gli stereotipi. Perché ci vogliono gli stereotipi della qualcuno lotta ha scritto, dura esempio, senza Mario Seminelli paura. Se scrive per il Fatto Quotidiano, sta una trasmissione con Giannino, è una pessima prova. È un'ottima prova. Guarda, lascio perdere, perché guarda, veramente ieri mi sono girate le palle a manetta rispetto a queste considerazioni. Considerazioni veramente ridicole. Potremmo usare però i tuoi giramenti di palle come fonti di energia alternativa. Sì, assolutamente. Guarda, facciamo andare la radio. Sia i miei e quelli di qualcuno che mi è vicino. Qualcuno che mi è vicino, sì, che siamo veramente un generatore. No, beh, devo dire che secondo me dareste luce elettrica a centinaia di migliaia di cittadini. Assolutamente. Anche se chi è in ascolto non capisce, ma noi riveriamo a distanza la custode degli equilibri. Sì, pausa di Mario. La custode. Vabbè. Va bene. La custode. Allora. No, però ritornando sul discorso del di un sindacato diverso, e lo dico da datore di lavoro, cioè lo dico da chi fa l'imprenditore, quindi teoricamente sono un metalmeccanico, sono esattamente dall'altra parte. In pratica sei un metalmeccanico. Sì, ma io perché ormai non ti sono... perdere in considerazioni personali. Secondo me invece abbiamo bisogno di sindacalisti che facciano il passaggio e che abituino gli imprenditori a fare un passaggio. A fare un passaggio. Lo dicevamo prima quando era chiuso. In Federmeccanica l'impostazione CISL ha messo in crisi tutti quelli che erano abituati a dire: ma sì, vediamo che cazzo vuole la FIOM. L'uscita dalla Fiat, da Federmeccanica e da Confindustria, questa è stata come storia qua. Naturalmente a questi microfoni dirlo provoca l'incazzatura di qualcuno. La dimostrazione è che Ceccardi, il presidente che ha vissuto questo, dopo aver fatto il contratto è uscito pure lui. Quindi scusate se ve lo dico, ma ogni tanto bisogna pur parlare chiaro anche delle vicende degli imprenditori. Quindi secondo me hai ragione, quindi siamo entrambi in minoranza. Perché ad esempio parlavamo della formazione, io stavo dicendo mentre eravamo in pausa che io sogno che quando faccio i colloqui di lavoro le persone mi chiedano quanta formazione gli farò fare, e non mi capita mai, perché o noi facciamo formazione e teniamo le persone aggiornate oppure non riusciamo ad andare però, avanti. Attenzione, che dipende anche dal fatto che la formazione delle imprese di solito è il solito corso sulla sicurezza e su cosa succede sulla disostruzione, esatto, se qualcuno ha colpa formazione... La gente, sai, se per formazione vorrebbe anche una formazione che poi serve davvero, perché in realtà quelle sono obblighi di legge, però noi facciamo le due formazioni, che sono la formazione di quando facciamo i KPI aziendali, facciamo formazione in obbligo di legge e poi i piani formativi per la crescita delle persone, perché le aziende non sono mica più quelle di una volta. No, poi per carità, come ci dicevano nelle SMS, è evidente che ci sono ancora le aziende dove non c'è magari l'aria condizionata e si lavora, al caldo, oltre 40 gradi a luglio per quei pochi giorni in cui ci sono i 40 gradi, quindi eccetera, il tuo eccetera. Non si può fare questa settimana è un'autocritica, perché stai dicendo ai tuoi dipendenti che cambierà integralmente il tuo stile di conduzione della relazione industriale. È un periodo di passaggio, lasciamo perdere. No, ma scusate, siccome abbiamo come dire il premio del giorno, no, il premio del giorno sul commento, tardi, diciamo, penso che questo sia rivolto a Renato, sì, che dice: è facile parlare male di persone che non sono presenti, quell'imprenditore è vero, è un attore. Ma come sarebbe a dire? Questo a giudicare dalla foto è un, diciamo, commentatore abbastanza frequente, però c'è gente che ha problemi di litio mattina, è un imprenditore, ma anche nel resto della giornata. Faccio l'imprenditore, ho un'azienda di famiglia, non sono un attore. La nostra azienda ha circa 50 persone, tra noi c'è l'aria condizionata, tra l'altro siamo un'azienda elettromeccanica in tutta la produzione, facciamo circa un bel po' di ore, 20 o 30 ore di formazione a persona all'anno, l'azienda va bene, guadagna, è in una fase di passaggio, ci sono delle novità, eccetera, eccetera. No, allora scusate, l'ascoltatore scrive: ringrazia perché leggiamo i messaggi. Ora io ho capito, praticamente voi scrivete le cose più assurde e demenziali, noi vi citiamo e voi potete morire felici. Ma lo faremo più spesso. Ma dai, no, va bene, nel senso... Beh, tra siamo molti tutti anni, su Twitter, ovviamente. Dai, ci scrivano su esatto, Twitter. Scriveteci, scriveteci. Cari ascoltatori, noi leggiamo tutto, diciamo le cose. Io devo chiedervi scusa perché i miei molto più autorevoli compagni, però vengono tutti, fanno altro nella vita, quindi non capiscono ancora questa banale cosa. La radio esiste perché ci sono gli ascoltatori, perché ce ne sono di più. Certo, e perché noi li compiacciamo. Come no? Come no? Come ne dico? Senza fare le battutacce che fa Carlo Alberto quando qualcuno gli dice "Ma io ho perso il reddito". Carlo Alberto, no, ma lui sì. No, aveva perso la rendita, non il reddito, la rendita. Ma glielo spieghiamo, ma col tono ma glielo spiego volentieri. Va bene, allora, caro ascoltatore, dico che ho i conti da Belva. Speriamo che non ci siano attentati sabato e la domenica. Comunque, rimanete su Radio 24 e buon weekend a tutti. Più forte.